La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, un buon fine settimana da Franco D'Assisti, buon sabato, buona domenica, buon cinema a tutti per questo primo weekend di giugno nel quale sembra finalmente esplosa l'estate. Non è in assoluto il primo weekend di giugno, ma è il primo nel quale, guardando fuori dalla finestra, sembra che quasi quasi sia una cosa normale, ecco. E questo importa, conta, perché tecnicamente dovrebbe essere un po' un clima ammazzacinema, si comincia ad andare più al mare, diciamo, che non in sala. Ricordatevi che al fresco dell'aria condizionata qualcosa c'è, qualcosa di interessante, adesso lo vedremo, c'è anche questa settimana. E allora andiamo tutti insieme a capire meglio quali sono i temi della trasmissione con i nostri titoli di testa. Il ritorno dell'horror all'italiana. Nelle sale, la stanza delle farfalle, con un cast che mette insieme gli attori simbolo del terrore americano. Dirige Jonathan Zarantonello, ospite della Rosa Purpurea. Un incantevole golfo americano, la festa del 4 luglio, tra bambini sorridenti e mangiatori di granchi. E poi la paura, la gente che comincia a morire, un parassita cresciuto a dismisura. È il mix horror ecologista di The Bay, il ritorno di Barry Levinson. Dall'alba alla notte, per le vie di Parigi, con Mr. Oscar, una misteriosa creatura in grado di vivere 7 vite. È l'atmosfera onirica di Holy Motors, il ritorno del genio maledetto del cinema francese Léo Szarax. Sul set del nuovo film di Leonardo Pieraccioni, un fantastico via vai, commedia sentimentale ambientata ad Arezzo. Un bancario sbattuto fuori di casa dalla moglie dovrà vivere qualche settimana con 4 studenti. Ascoltate l'intervista esclusiva al comico toscano. Insomma, menù ricco anche questa settimana per quanto concerne la Rosa Purpurea. Cominciamo subito allora con le nostre scelte, le scelte sul grande schermo. Cominciamo con quello che abbiamo definito un genio maledetto del cinema francese, regista di grande mano, di grande impulso, di grande istinto. Lo dimostra anche in questo suo nuovo film, Holy Motors, dopo che aveva incantato tanti anni fa il pubblico di tutto il mondo con Les Amants du Pont Neuf, che forse ricorderete. E allora stiamo parlando di Léo Szarax con il suo nuovo film, dicevamo, Holy Motors. È un film veramente molto strano, ma che comunque ci restituisce l'idea forte di un'idea di cinema, di un regista e di un autore che ha un'idea, per quanto sicuramente fuori dagli schemi, però molto molto precisa. È una giornata, la giornata di un personaggio stranissimo, Monsieur Oscar, che sostanzialmente vive molte vite, attraversando Parigi, le strade di Parigi, accompagnato da una bionda signora. Allora, noi adesso facciamoci un po' le orecchie al clima del film con il trailer, poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Sta bene, signor Oscar? Ah, Céline, certi giorni un omicidio non basta. Che cosa ti fa andare avanti, Oscar? Continuo come ho cominciato, per la bellezza del gesto. La bellezza, si dice che sia nell'occhio. La bellezza è nell'occhio di chi guarda. È meglio vivere, perché nella vita c'è l'amore. Niente ci rende così vivi come vedere gli altri morire. Il nostro vivere è cambiato. Boris Sollazzo, allora parliamo di questo Holy Motors, film che ha diviso moltissimo la critica, ma noi stiamo dalla parte di Léo Szarax. Insomma, è andata così, ci è piaciuto. Ed è un film sicuramente, come dicevo prima, che dà l'idea di qualcuno che film ne fa pochi, li fa ogni tanto, e che ci mette sicuramente qualcosa che viene non dagli schemi precostituiti, ma da forse una ricca e prolifica confusione mentale. Secondo me chi ama il cinema deve stare comunque quasi a prescindere dalla parte di Léo Szarax, perché uno che rischia, uno che ama il cinema, qui credo da René Clair a Stanley Kubrick, citi senza esagerare visivamente, citi veramente quasi tutti i maestri di un certo filone del cinema internazionale e della storia del cinema. Di sicuro è un film che può dividere. Può dividere, secondo me, soprattutto la prima visione. Non a caso ha diviso molto nella prima visione cannense, non di quest'anno ma dell'anno scorso, dove urla e applausi si sono mescolati. E piano piano invece nella sua vita successiva, sia nelle sale francesi sia negli altri festival, Locarno, Torino, è stato più accettato. È un film che probabilmente ha, un po' come La grande bellezza, chi lo ha incontrato per la prima volta e per primo ha creato un minimo di disorientamento, chi era più preparato invece ha trovato pane per i suoi denti. Qui c'è un Leo Scarax che secondo me torna alla felicità degli inizi, alla felicità creativa degli inizi, lo si capisce subito, fin dalla prima scena in cui sostanzialmente il pubblico si specchia in un'altra platea, in una scena molto particolare. E le scene molto particolari si moltiplicheranno nel film, penso alle poche pose, ma decisive, di Eva Mendes, penso forse a una delle scene di sesso più bizzarre della storia, e non vi voglio dire, non ve la voglio descrivere perché ve la dovete godere, molto molto particolare. Penso a questo Lavant, che è il suo attore feticcio, che vive 10 vite o 9 se non sbaglio, 9 più una, e dimostra un talento recitativo straordinario. A Carax secondo me è riuscito tutto quello che non era riuscito a Cronenberg con Cosmopolis, un po' perché probabilmente uno aveva Pattinson e l'altro Dennis Lavan, un po' perché secondo me Oscar Hax ha avuto il coraggio di sfidare il cinema, e secondo me se un alieno dovesse scendere sulla Terra e volesse chiedere che cos'è il cinema, per farglielo capire, Holy Motors dovrebbe essere uno dei film da mostrarne. E beh, insomma, endorsement impegnativo da parte di Boris Sollazzo, ma insomma è sicuramente cinema puro, ecco, cinema allo stato puro. Dopo c'è chi ama più il cinema narrativo, chi si perde di più in altre situazioni. Questo è il cinema di Leos Carax. Mi ha fatto piacere il paragone che hai fatto, Boris, con La grande bellezza, che non c'entra nulla in termini visivi, estetici e narrativi, ma per dirvi che La grande bellezza sta andando molto forte al botteghino, che alla fine della scorsa settimana era terzo in classifica dietro due brand affermati, ovviamente Notte da Leoni 3 primo in classifica, Fast Furious 6 secondo in classifica, poi La grande bellezza che questa settimana ha incassato di più del Grande Gatsby, altro film con una cifra stilistica riuscito o meno, ne abbiamo parlato diffusamente qui alla Rosa, comunque con una cifra stilistica forte, quella di Baz Luhrmann, insomma il grande cinema d'autore popolare comunque che va incontro a un grande pubblico, occupa in questo momento la terza e la quarta posizione della classifica in Italia, con incassi globali che veleggiano verso i 5 milioni, quello di Sorrentino, verso i 7, quello di Luhrmann. Insomma, è una piccola soddisfazione anche questa, tutto sommato, vedere che c'è pubblico per un certo cinema dietro i blockbuster affermati. Il mio nome è Donna Thompson. Studiavo scienze della comunicazione all'American University. Facevo un servizio sulle celebrazioni del 4 luglio a Claridge, Maryland, il 4 luglio del 2009. Niente telecamere, per Questa favore. È la prima volta che parlo pubblicamente del disastro che è accaduto. Io ero presente. Non è possibile. Andiamo, seguiamola! Le atmosfere dell'incipit, dell'inizio di The Bale, film con il quale apriamo questa seconda parte della Rosa Purpurea, firmato da un nome importante, quello di Barry Levinson, Dice Niente, Rain Man, L'uomo della pioggia, Bugsy, A cena con gli amici, insomma tanti titoli importanti per Barry Levinson, qualcuno anche non particolarmente azzeccato nel proseguo di una carriera comunque grande, e adesso questo film, un mockumentary, un finto documentario, girato tutto e assemblato tutto con immagini di telecamere di sorveglianza, di piccole videocamere, di telefonini, tutto quel footage che ormai riprende ogni istante della nostra vita, e questo è un po' anche la scommessa di Barry Levinson per raccontare questa storia. Avete sentito quella di Donna Thompson, una giovane giornalista all'epoca dei fatti che ci vengono raccontati nel film qualche tempo dopo, a Chesapeake Bay nel Maryland, un'incantevole baia, dove il 4 luglio, mentre imperversava la festa delle feste degli americani, qualcosa è successo qualcosa che è diventato di minuto in minuto, di ora in ora, sempre più grave, sempre più terrorizzante, ovvero la gente prima gli animali, i pesci, gli uccelli, poi la gente ha cominciato a gonfiarsi, ad avere delle orrende vesciche su tutto il corpo e poi a morire. A morire a decine, a morire dentro un pronto soccorso intasato di persone dove i medici non sapevano che pesci pigliare. Interventi d'emergenza. Sono il dottor Jack Abrams dell'Atlantic Hospital a Claridge, Maryland. Che possiamo fare? Siamo nel mezzo di un'epidemia batterica. Sono il dottor Williams, malattie contagiose. Crede di avere un caso batterico? Non uno, 30. Come? Ho 30 persone nella sala d'attesa del mio ospedale. Quali sono i sintomi? L'intero gruppo riporta vesciche, pustole, dove? Lesioni. Viso, collo, gambe, torace. Ho una paziente con la schiena completamente ricoperta di vesciche. Va bene. Quando è iniziata la cosa? Stamattina. Oggi. Cosa pensa che sia? Non ne ho la più pallida idea. È proprio così, come si diceva nei gialli d'epoca, la polizia brancola nel buio, qui è la medicina che brancola nel buio, cerca di capire che cos'è, noi ovviamente non ve lo diciamo, però vi diciamo che questo è un film molto, molto riuscito a mio modo di vedere, molto asciutto, 84 minuti, con una cifra visiva ed estetica forte, come abbiamo spiegato, quella del footage, diciamo così, amatoriale recuperato da diverse fonti, con il quale Barry Levinson, che è un regista vecchio fra virgolette per generazione e per approccio, si misura con un notevole successo, raccontandoci alla fine un horror ecologista, potremmo definirlo, Boris, un clima d'orrore però scientifico, dove non c'è il soprannaturale, dove però l'uomo finisce per fare i conti con quello che sta combinando e con quello che ha combinato all'ambiente nel passato recente. Esattamente, Barry Levinson è una vecchia volpe del cinema e qui lo si vede benissimo, prende un linguaggio che da lui è lontano, lui è un regista narrativo, è un regista che ama le storie rotonde, le sceneggiature ben costruite, ama anche usare attori di un certo peso per dare corpo ai sentimenti, alle azioni, alle storie. Qui invece si mette in mano, ed è questa forse la cosa più interessante di The Bay, a tutt'altro, si mette in mano ai diversi linguaggi cinematografici molto nuovi, ci sono tante riprese dal cellulare, tante riprese da piccole videocamere, da telecamere di servizio, tutte montate in maniera molto buona. E qui si capisce che quando sei un grande regista, un grande shooter, perché Levinson è soprattutto un grande shooter, sai davvero tradurre nella tua poetica, nella tua estetica, qualsiasi linguaggio. E questa è sicuramente una delle cose più interessanti. Nelle mani di un altro sarebbe stato banale e forse mediocre, The Bay nelle sue mani diventa un film interessante, un film senza alcuna infamia e con qualche lode. Interessante perché poi va a pescare in quel linguaggio che partiva da The Blair Witch Project e che poi si è trasformato, diciamo, in una sorta di cinema complottista, quel cinema che vuole raccontare ciò che lo Stato un po' alla X-Files ci nega, ci nasconde. Soderbergh l'ha raccontato in un'altra maniera in Contagion, qui invece l'accusa ecologista è molto forte, è molto più vicina all'ultimo avanzante. Ed è interessante come tutto avvenga il 4 luglio, dove gli americani mangiano il tacchino farcito, che è il simbolo della loro libertà, il simbolo dei loro festeggiamenti, e qui tutto nasce dallo sterco dei polli, e quindi anche come simbologia è molto forte. È un film che abbiamo già visto in alcuni casi, perché questo tipo di horror l'abbiamo visto spesso, soprattutto per quanto riguarda il filone degli esorcismi, si è utilizzato questo linguaggio, però questo è fatto da Barry Levinson e secondo me questo basta per convincervi ad andare a vederlo. Qui Cessna 157, avanti Cessna 157, sto cercando di capire che cosa sta succedendo. So che sono state chiuse tutte le strade dirette a Claridge, ma ora sto sorvolando l'acqua e c'è una montagna di pesci morti dappertutto. Hai detto pesci morti? Non so quanti siano, ma sinceramente non finiscono mai. Allora, questo era The Bay di Barry Levinson nei cinema per questo fine settimana ricco, nel quale ovviamente noi non ci dimentichiamo di giocare con voi, e apriamo quindi la prima finestra sul nostro Blu-ray game di questa settimana. Giochiamo in alta definizione con questo film. Un quarto alle sette? Annie potrebbe avere altri progetti, dovrò chiederglielo. E poi posso venirci anche da sola. La conosce la strada, non verrà in barca, vero? E allora, avete già indovinato di che film si tratta? Provate a spremere le vostre meningi cinefile, anche perché avete sentito il gracchiare quasi da vinile di un film d'epoca. La Rosa Purpurea @radio24.it è come sempre il nostro indirizzo per scriverci con il vostro indirizzo di posta ordinaria il titolo del film e provare a vincere una copia in Blu-ray per il sabato e per la domenica di questo film, del quale vi daremo altre due tracce più tardi. Sul campo tu sei emotivamente imprevedibile. Confondi il coraggio con la spericolatezza. Ho deciso di non promuoverti. Tu hai un figlio che neanche conosci. Ti sta cercando. E non gli serve un comandante in capo. Gli serve un padre. Andate a costruirvi dei ricordi in comune. Cambiamo epoca, cambiamo film, parliamo di After Earth, Dopo la fine del mondo, il film di Night Shyamalan, ricordate il regista del Sesto Senso e di qualche horror non particolarmente riuscito dopo quello. Ecco, quello era un altro regista, ma questo non voglio anticipare troppo il giudizio generale su questo After Earth, che è stato voluto, prodotto da Will Smith, interpretato insieme a Jaden Smith, al figlio dell'attore, che ci catapulta su un futuro nel quale la razza umana è stata prima scacciata dalla Terra, poi sostanzialmente costretta a farvi rientro, e in questo momento nel quale il rientro sembra cosa quasi riuscita, il patatrac accade e ci si trova su una Terra che è la Terra molto inospitale, con esseri che si sono impadroniti del nostro pianeta, e soprattutto con un compagno di viaggio piuttosto scomodo denominato Ursa, che è sostanzialmente cieco ma capace di fiutare la paura delle persone, quindi quando sente, percepisce i ferormoni, ti attacca e ti sbrana sostanzialmente. In questa situazione si vengono a trovare padre e figlio, proprio Will Smith e suo figliuolo. Abbiamo sentito prima nell'incipit, vi abbiamo fatto ascoltare il momento del tentativo di reclutamento. Il ragazzo vuole diventare un ranger, un vero e proprio eroe come suo padre, ma sostanzialmente i generali gli dicono che non è cosa, e però dovrà dimostrare invece di essere all'altezza per salvare la vita sua, di suo padre e forse anche del pianeta. Schiantati al suolo, due sopravvissuti. Lo sai dove ci troviamo? No, signore. Sulla Terra. C'è un segnalatore luminoso nella coda dell'astronave, più o meno a 100 km da qui. Dobbiamo recuperare quel segnalatore. Oppure moriremo. Boris, cos'è che non funziona in questo film? Un film che avrebbe anche un'idea di fondo, anche questa già vista e rivista, ma insomma potabile. Però poi quando cominci a vedere che il bambino si inietta fiale direttamente nel cuore, che vengono chieste prove di forza superiori alla, come dire, alla struttura, alla capacità umana, e che tutto viene chiesto in maniera stentorea, ti viene in mente un po', no, certe chiese, certe religioni, certi santoni che hanno un pochino inquinato il mondo. È così? Assolutamente sì, sono completamente d'accordo. Qui manca sia quello che ti puoi aspettare, cioè il carisma recitativo di Will Smith, la forza che lo rende un personaggio simpatico anche quando ciò che deve interpretare è la disperazione, e che lo rende malinconico anche quando deve essere esaltato, entusiasta. Da Independence Day alla ricerca della felicità, secondo me non lo abbiamo visto essere eclettico come da Men in Black, Nemico Pubblico, eclettico sia nelle parti più comiche sia nelle parti più drammatiche. Qui invece sembra mancare completamente, ha uno stile compassato di recitazione, si blocca dentro un'astronave forse per sfidare se stesso come attore, sembra sempre distratto probabilmente da qualcos'altro, cioè dal fatto che sentiva il peso di questo film. In questo film c'è molto della fede che lui, Tom Cruise e molti altri seguono in questo momento, e c'era più l'esigenza di comunicare qualcosa che di raccontare un film, raccontare una storia. Lo mettono, lo inquadrano in un piano narrativo ormai abusato dal cinema americano da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, che è il rapporto padre-figlio. Il rapporto padre-figlio poggiato sulle aspettative l'uno dell'altro e sui sentimenti l'uno per l'altro e l'uno dell'altro, perché chiaramente c'è il padre duro, militare, che pretende coraggio dal figlio, e il figlio, che è troppo piccolo per provare questa audacia, questo coraggio, che vuole invece comprensione dal padre. Attraverso questo c'è tutto un ragionamento sulla paura molto forte. Il punto è che quando tu racconti, secondo me, un certo tipo di prove, un certo tipo di rapporto così elementare, devi fare una scelta: o essere un po' cialtrone, come succede in Hunger Games, in un altro modo in Harry Potter, oppure essere molto serio e quindi abbandonare tutta una serie di facili scene d'azione, di facili scene scorciatoia. E qui invece non succede né l'una né l'altra cosa. In più è anche un film d'azione, ma tremendamente noioso. Il cattivo è brutto e poco affascinante, come questa ursa, che non ti fa mai paura, anche se non la vedi. Si tenta il gioco dello squalo: non vedi il nemico fino a che non si palesa, e manca anche Shyamalan nella sua dote migliore, cioè quella del racconto della suspense. Ormai sembrano due grandi divi, due grandi ragazzi prodigio che si sono persi nei meandri di Hollywood e non trovano più tutto il talento che li aveva portati ad essere in cima al mondo. E allora, questo per quanto concerne il film After Earth. Grazie a Boris Sollazzo e a risentirci la prossima settimana. Grazie a te, alla prossima. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma, ancora un paio di ospiti che ci aspettano qua per chiacchierare sui loro nuovi film. Il primo è Jonathan Zalantonello, che porta in sala, nelle sale italiane da questo fine settimana, The Butterfly Room, la stanza delle farfalle, e per molti motivi capirete che è un film importante. Jonathan in collegamento con noi, lo saluto, ciao Jonathan. Eccoci, ciao, buonasera a tutti. Allora, io direi che per raccontare un po' questa storia che tu hai voluto mettere in pellicola, ormai non si fa più, si mette in byte, diciamo così, però insomma, sì, in hard disk, quella appunto di una donna, Anne, che si occupa di una bambina, figlia di una vicina, ma in questa casa c'è questa stanza delle farfalle, questa Butterfly Room, che dà il titolo al film, che affascina molto la piccoletta, e tu ci farei scoprire che insomma non bisogna stare mai molto tranquilli quando qualcuno fa la collezione di farfalle. Vieni, ti faccio vedere la mia collezione di farfalle. Non bisogna stare molto tranquilli. Questo è un pochino l'incipit, ma adesso ne parliamo con più profondità. Però dicevo, è una presenza importante l'uscita questa settimana di questo film, la settimana prossima di Tulpa di Zampaglione. Vuoi dire che finalmente il cinema italiano ha trovato modo di ritornare a quello che è stato uno dei filoni che lo hanno reso grande nel mondo, ovvero il thriller, il giallo e l'horror? Fra poco ne parliamo, prima sentiamo però una clip dal film. Questa è la stanza delle farfalle. Perché le metti dentro le cornici? Perché così non volano via. Vogliamo imparare a usare questa mano destra, Alice? Smettila subito, me ne vado e non torno mai più! Quando era piccola tutto era più facile. Io non ti lascerò mai. E tu non lascerai mai me. A volte vengono degli strani rumori dal suo appartamento. Dal mio appartamento? Ne è sicura? Visto che lei non è, chi altri potrebbe essere? Mi chiedevo se tu potessi tenere Julie con te mentre io non ci sono. Sarà un piacere. Lo sai che Anne tiene una bambina chiusa nella stanza delle farfalle? Io so che cosa ha fatto. Allora, Jonathan, raccontaci un pochino genesi e produzione di questo film, che ha dentro tanti nomi, anche volti importanti dell'horror americano, della storia dell'horror americano, da Barbara Steele protagonista a una serie di altri nomi importanti visti in tanti Freddy Krueger, in tanti Venerdì 13. Hai fatto una sorta di dream team dell'horror. Senza dubbio un dream team per me, da appassionato di horror. Sono riuscito a ritrovare a Los Angeles, dove abbiamo girato, tutte le regine, le screen queen dei film con i quali mi sono innamorato di questo genere da piccolo, e quindi appunto Heather Langenkamp di Nightmare, Adrian King, Venerdì 13, PJ Souls, Halloween, Camille Keaton, I Spit on Your Grave, e ho avuto l'onore di poterle dirigere e di poter accompagnare con loro questo ritorno da protagonista di Barbara Steele. E l'idea era quella fondamentalmente di fare un thriller totalmente al femminile, infatti tutte sono queste, sono scream queen, e di dare uno spessore di cattivo a un personaggio femminile di una certa età, che solitamente insomma è visto come, soprattutto nei film horror, come personaggio positivo, affiancando a questo personaggio negativo di questa signora, signora per bene, una bambina che compare all'inizio del film e che in realtà sembra poi essere ancora più spietata di lei. Quindi tutto il film è una sorta di duello tra queste due figure, a capire chi è la vittima e chi è il carnefice. Ecco, c'è un clima proprio da giallo italiano, e anche se girato all'estero, anche se recitato in inglese, anche se la cifra poi complessiva riporta a un horror internazionale, però c'è molto di quel clima non splatter, di quel clima noir che pervade la situazione piuttosto che sottolinearla. Ritorno alla domanda iniziale, è un richiamo diciamo che ci fa pensare che forse finalmente i nostri giovani autori di cui tu fai parte di horror stanno riguardando al loro passato, alle loro radici, per fare quello che in Spagna è riuscito molto bene, cioè quello di rilanciare un genere nel quale noi francamente eravamo un po' avanti, no? Ma guarda, senza dubbio il film ha una matrice italiana, anche con Barbara abbiamo definito il suo personaggio una dark side della mamma italiana, una mamma iperprotettiva. E sì, c'è la coincidenza del mio film e di quello bellissimo di Zampaglione, Tulpa, che escono a date così ravvicinate. Devo dire, siamo a giugno, quindi forse anche questo ci fa capire lo spazio che nel cinema italiano viene riservato alle pellicole di genere. E a me piacerebbe moltissimo parlare di rinascita e di una speranza di tornare ai fasti di un tempo. La differenza che vedo rispetto alle pellicole europee, che mi piacciono molto, mi piace citare anzitutto Martyrs, che per me è uno degli horror più belli della storia del cinema, ed è francese appunto, è la mancanza di produttori in Italia. Io ho faticato a trovare produttori che anzitutto conoscessero il genere, che lo apprezzassero, o anche soltanto a trovare dei produttori avidi, magari ci fossero, che dicono: ma in tutta Europa stanno facendo questi film, li vendono in tutto il mondo, quando i film americani horror escono da noi e fanno un sacco di soldi, voglio fare soldi anch'io. Ecco, purtroppo manca anche questa figura. C'è una sorta di totale oscurità nei confronti del mondo del genere, e questo rende il tutto più problematico, perché allora ci sono appunto figure come per esempio quella di Federico, di grandi personalità che si impegnano in prima persona e a 360 gradi per confezionare un progetto. Lo stesso potrei dire dei Manetti, insomma, che sono quasi una factory. Però ecco, io sento un po' invece la mancanza di figure produttive che poi tutto sommato permetterebbero la rinascita di una vera e propria industria. Allora, se tornassimo ad avere un'industria di cinema, in particolare di cinema di genere, ci sarebbe molto più spazio per tutti. E allora speriamo che questo, però, questo The Butterfly Room, lo ricordo, in tutta Italia, La stanza delle farfalle, il giallo horror noir all'italiana di Jonathan Zalantonello, speriamo che sia il primo passo verso questo obiettivo che tu hai raccontato. Grazie ancora per essere stato qui con noi e per il film. Grazie tante a voi. E allora, noi a questo punto, salutato Jonathan Zalantonello con il suo The Butterfly Room, giochiamo insieme per la seconda traccia del film misterioso di oggi. Bene, come lo trovi il nostro paesino? Semplicemente orrendo. Ah, immagino che non offra molto a un turista di passaggio, a meno che non sia un amatore di catapecchie. Tutto sta ad abituarsi. La Rosa Purpura @radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica. Noi vi chiediamo di che film si tratta per provare a vincere una copia in Blu-ray di questo film per il sabato e una per la domenica al più bravo fra gli ascoltatori, che per primo indovinerà e ci darà anche il suo indirizzo per spedire il Blu-ray. Più tardi, l'ultima possibilità. Dal cinema che c'è già in sala, quello che ci sarà. Lunedì 3 giugno ad Arezzo sono partite le riprese di Un fantastico via vai, la nuova commedia sentimentale di Leonardo Pieraccioni, che uscirà in Italia il 12 dicembre, insomma fin di Natale per eccellenza, il 12 dicembre prossimo da 01. Un cast ricchissimo, tanti amici della prima e dell'ultima ora: Massimo Ceccherini, Maurizio Battista, Giorgio Panariello, Marco Marzocca, Serena Autieri, oltre a Chiara Mastalli e ad altri attori. Stavolta cambia il partner, la storia è scritta con Paolo Genovese anziché con Giovanni Veronesi, e racconta le vicissitudini di un bancario, appunto Pieraccioni protagonista, che dopo 15 anni di matrimonio si vede sbattuto fuori di casa dalla moglie per un malinteso e deve riparare in un appartamento che condivide con quattro giovani studenti, una situazione che lo riporta a quelli che sono gli anni della sua gioventù, della sua post-adolescenza. E allora, il nostro Boris Sollazzo è andato sul set ad Arezzo di Leonardo Pieraccioni, del suo Un fantastico via vai, ne è uscita questa intervista. Beh, questo è un film sulla nostalgia, la nostalgia di un 45enne, mi levo 3 anni, della sua giovinezza dai 20-23 anni, cioè la giovinezza dell'università. Tutte le volte che passa di fronte a questo quartiere universitario di Arezzo, perché Arezzo giriamo, gli viene questa nostalgia, perché lui in realtà poi invece è sposato da 16 anni, ha 2 gemelle, lavora addirittura in banca, ha la cravatta, la divisa da una parte, parrebbero che i giochi fossero già decisi e fatti. Un fraintendimento con la moglie che letteralmente lo butta fuori di casa e lui va a vivere nella casa di questi studenti, rinnovando prima di tutto il suo spirito e dando anche un pochino della sua sgangherata esperienza a questi ragazzi. Senti, questa fuga nel passato, questa sudamericana che lasci fuori da casa a pagina 20 della sceneggiatura, sono dei messaggi in codice anche per la famiglia tua attuale? Ah beh, potrebbe essere che l'ha scritta Laura, dice, non lo so, nel senso che sai, spesso e volentieri, dice Pieraccioni, fa sempre il solito film, in realtà quando si fa la commedia sentimentale c'è una scalettatura precisa, per cui laddove a pagina 20 deve entrare la protagonista, ce la faccia entrare una meravigliosa sudamericana che però rimarrà fuori dalla strada, dal pianerottolo, perché in realtà quello che voglio raccontare nella prima parte è la vita reale che io non ho mai frequentato, perché appunto ho sempre interpretato dei ragazzi allora, degli uomini dopo, spensierati che incontravano l'amore, qui invece l'amore c'è ed è un amore tra l'altro non in crisi, state attenti bene, la cosa bellina è che loro, io e l'Autieri che interpreterà il ruolo della mia moglie, non siamo una coppia in crisi, siamo un pochino seduti come ci si siede dopo 16 anni di matrimonio. Quindi è un po' un punto di svolta questo film? Sì, io, guarda, non so se è un punto di svolta, ho sempre detto che mi piacerebbe dare dignità alla mia età. Allora, anche se c'è un codice che è quello che l'attore comico si può innamorare, Totò a 70 anni e passa si innamorava nei film della ballerina ventenne, perché quella è una convenzione ormai passata. Però la cosa che mi piacerebbe a me ora, complice anche probabilmente la nascita della mia figliola, non essere mai ridicolo, cioè fare dei ruoli in cui ti ci vedi comunque bene. Poi è chiaro, come vedi, l'espediente per poi andare a incontrare un'altra situazione l'ho trovato, perché forse personalmente mi trovo molto meglio a parlare con i giovani nelle università che nelle riunioni di condominio con i miei simili. I ragazzi del 95 come sono cambiati rispetto a questi del 2013? In fondo sono passati 20 anni e tu l'hai raccontati tutti e due. Sono uguali, perché la giovinezza è un parco giochi che ti dà le stesse identiche emozioni che ti darà anche fra 20 anni. È inutile dire i social network, dei quali social network io sono molto presente e mi diverto come una bestia, stanno cambiando le abitudini. No, intanto la casa del popolo, i social network sono la nuova casa del popolo. Casa del Popolo che ormai non frequentava più, o le compagnie, ve le ricordate? Voi no, siete più giovani, ma noi ci sapeva le compagnie, ogni compagnia tipo Grease ci aveva nella piazzetta il suo angolo, quelle non esistono più, anzi vengono viste con degli occhi, perché la differenza una e basta, i ragazzi di oggi sono molto più scafati rispetto a come si era noi a 20 anni, però le emozioni sono quelle. Io ho 2 cugine di 16 anni, scrivono su Facebook le stesse cose che scrivevo io a 16 anni e mi sembrava che quello fosse il mondo importante, non lo è. A quasi 50 anni capisci che ci sono delle priorità che non sono certo quelle, non lo chiamo, mi deve chiamare lui. Eccoci qua, ancora insieme alla Rosa Purpurea, la quarta parte del nostro programma, come sempre dedicata alle visioni domestiche, al cinema che ci piomba addosso dalla televisione, dall'home video. E cominciamo col capitolo televisione, come sempre ricchi palinsesti del TV in chiaro, del digitale terrestre, dei canali strettamente cinematografici, ma anche di quelli generalisti, come il caso di questa settimana. E noi andiamo a fare, a enunciare le nostre scelte, i nostri consigli di visione insieme agli amici del settimanale Film TV, che ci regalano come ogni settimana il grande Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Grande presentazione oggi, ma te la sei meritata sul campo. Cominciamo subito con domenica. Questa domenica, 10 giugno, 21:05, Rai 3, prima serata, quindi, per un film importante da vedere, magari non il più riuscito di Terrence Malick, ma che molti hanno amato e che comunque ci dice molto della poetica di questo regista, ovvero The Tree of Life. Of Life, domenica su Rai 3 alle 21:05, quindi un film che è davvero strano vedere in prima serata. Da una famiglia degli anni 50 a Waco si passa a un uomo alienato tra i grattacieli di Houston, dalla preistoria del mondo si arriva alla fine della storia. Palma d'Oro a Cannes del 2011 è il quinto lungometraggio del regista filosofo Terrence Malick. È una partitura che avvicina davvero il cinema alla musica, un insieme di frammenti legati per associazione o contrasto che forse non raccontano altro che un pensiero, una riflessione sull'universo e una sorta di viaggio sulle strade di domande esistenziali. Malick fa un cinema lirico, nel senso che usa e ride la macchina hollywoodiana per tradurla in un'espressione personale, una sorta di canto quasi apostolico in cui traduce appunto in cinema il proprio credo filosofico, la propria idea di mondo e anche di religione, insomma di tutto. È un film decisamente ambizioso, dove ci sono tracce di gnosticismo, è un film che poi ha partorito anche uno stranissimo spin-off visto l'anno scorso, Venezia to the Wonder, che uscirà a giugno nelle nostre sale. E allora, questo è The Tree of Life di Terrence Malick, domenica 10 giugno, 21:05, Rai 3. Secondo consiglio, invece, andiamo indietro nel tempo cinematografico, perché parliamo dell'inizio degli anni 80, ma soprattutto storico, perché parliamo di una grande pattuglia protagonista tra le altre grandi imprese dello sbarco in Normandia. Il film si intitolava Il Grande Uno Rosso ed era diretto da Sam Fuller. Esattamente, Il Grande Uno Rosso su 7 Gold, lunedì alle 21:10, dall'Africa del Nord alla Sicilia, dalla Normandia al Belgio, alla Cecoslovacchia, le vicende di soldati della prima divisione di fanteria statunitense, Il Grande Uno Rosso appunto. Fuller, grandissimo, che aveva visto la guerra in prima linea, divenne poi reporter dal fronte e scrisse questo film assemblando ricordi personali e racconti di commilitoni. Amatissimo da Scorsese, che doveva interpretare il ruolo del narratore e preso come punto di riferimento dallo stesso Terrence Malick, di cui abbiamo parlato prima per La sottile linea rossa, è un film di guerra durissimo, veramente bello, e feroce ma meraviglioso. In TV va la versione da 111 minuti, ma esiste una versione restaurata ancora più bella di 146. E allora, Il Grande Uno Rosso è su 7 Gold lunedì 11 giugno alle 21:10. Grazie e buon lavoro a Giulio San Giorgio e a tutti gli amici di Film TV. Ciao Franco, alla prossima settimana. E noi siamo arrivati alla terza e conclusiva traccia misteriosa del film di oggi. Mitch, posso portare i pappagalli qui dentro? No! Ma mamma, sono nella gabbia. Sono uccelli anche loro. La Rosa Purpurea, @radio24.it, di che film si tratta, titolo e vostro indirizzo per provare a vincere una copia in Blu-ray del film, come hanno fatto settimana scorsa due nostri ascoltatori riconoscendo questo film. Come la capisco? Come fa a capirmi? La sua sembra proprio la famiglia perfetta. Una famiglia perfetta non esiste. Beh, la sensazione la sua si avvicina molto. Anzi, secondo me è proprio il destino che mi ha portato qui per mostrarmi quello che mi sto perdendo. E allora era appunto Una famiglia perfetta, uno dei film più belli a mio modo di vedere dell'anno per quanto riguarda il cinema italiano. Lo hanno indovinato per primi e vincono quindi una copia del film Vito Miraglia di Matera e Gennaro Guariniello di Napoli. Saranno loro a ricevere il film in DVD che ci racconta il nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, allora da Warner Home Video, la pubblicazione solo DVD del film, come dicevi tu, comunque 5 di Ottima Resa d'insieme, traccia audio Dolby Digital Multicanale in italiano di buona efficacia. Come extra segnalo il backstage che contiene interventi di cast e troupe seguendo la lavorazione dell'opera. Ricordiamo appunto film che racconta la storia di un uomo molto solo che si inventa una famiglia, sostanzialmente la noleggia, la noleggia, l'affitta presso una compagnia di teatranti per passare un Natale nel quale senta un po' di calore umano, ma succederanno delle cose che scompagineranno un po' tutto quello che è il materiale umano sulla piazza. Claudio, andiamo avanti con le segnalazioni, con le novità invece in un video di questo periodo, cominciando con un film molto recente, Jack Reacher. È il più bel colpo che abbia visto nella mia vita da civile. Se le dico che nell'esercito Barr non era così neanche nel suo giorno migliore? Ho consegnato i bersagli io stesso, guardi, c'è la mia sigla su ognuno. Li ha anche appesi nell'area di tiro? Ma dice sul serio? Dico che Barr potrebbe avere un amico. Uno che ha scambiato i bersagli nell'area, forse Barr gliel'ha concesso. E si sentiva il re del mondo col suo nome appeso al muro. Non ho mai visto un bravo tiratore disposto a farlo neanche per la madre. A meno che non volesse far incolpare la madre di un pluriomicidio. Cinque passanti vengono uccisi a sangue freddo da un maniaco che a debita distanza con un fucile di precisione di Fredda senza pietà. Tutti gli indizi conducono all'ex militare James Barr, che in servizio in Iraq si era macchiato di omicidio, all'epoca scoperto da Jack Reacher, investigatore in esercito, ora in congedo, invocato dallo stesso Barr per dimostrare la sua estraneità al massacro. Reacher non vede l'ora di inchiodare definitivamente Barr, ma le prove in mano agli inquirenti non convincono lo scaltro detective. Interessante thriller cucito a misura per l'attore Tom Cruise, qui nei panni anche di produttore, che ha soldato alla regia Christopher McQuarrie, già sceneggiatore di Operazione Valchiria, ma soprattutto del mirabile I Soliti Sospetti, edizione di DVD ma soprattutto Blu-ray da parte di Universal Pictures Home Entertainment, con un disco da riferimento in alta definizione per la qualità delle immagini, traccia purtroppo audio solo Dolby Digital multicanale per l'italiano, di resa simile a quella del DVD. Da sala cinema la DTS addirittura 8 canali ad alta risoluzione inglese. Come extra approfondimenti sulla lavorazione e la genesi dell'opera, però attenzione, ci sono soprattutto due commenti al film, il primo in compagnia del regista assieme a Tom Cruise, ma soprattutto il secondo, insolito e tutto da ascoltare, in compagnia del compositore della colonna sonora, Joe Kramer. E allora, questo era Jack Reacher. Noi andiamo avanti invece con un altro consiglio, un protagonista importante come Ben Stiller per Vicini del terzo tipo. Salve, io mi chiamo Gianmarcus, felicemente divorziato da poco e desideroso di essere più coinvolto nella comunità locale. Questo è stato semplice. Benvenuto, Gianmarcus. Oh, inoltre, ho immaginato a lungo un certo scenario nella mia mente che spero si avveri proprio in questo modo. Giovane, sexy, casalinga asiatica, da sola di notte, spaventata. Un rumore accanto ai bidoni della spazzatura. Meglio chiamare la vigilanza di quartiere. In seguito al misterioso omicidio di un custode notturno presso il grande negozio dove lavora, Ivan cerca di coinvolgere gli abitanti della cittadina di Glenview per creare un servizio di vigilanza a protezione del vicinato. All'appello rispondono unicamente un giovane invasato scartato all'accademia di polizia, un capo edile in cerca di divertimento e nuovi amici e un divorziato convinto che basti la divisa per rimorchiare donne facili. I quattro si ritroveranno niente meno ad affrontare un'invasione aliena. Commedia a tratti irriverente che infila delle buone gag senza però mai veramente riuscire ad andare al di là della media del genere, è valida più per i suoi interpreti, tra cui Vince Vaughn, Ben Stiller e Jonah Hill. Da 20th Century Fox Home Entertainment, l'uscita DVD, ma anche qui consiglio il Blu-ray, di resa strepitosa per le immagini, audio DTS in italiano, multicanale di ottima qualità, superiore l'originale DTS ad alta risoluzione in inglese. Come extra, oltre ad alcuni approfondimenti sulla lavorazione, segnalo dei divertenti errori sul set e una raccolta di sequenze omesse dal montaggio finale. E allora, grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. E a me non resta che ricordarvi la nostra pagina Facebook, la Rosa Purpura Radio 24. Unitevi alla nostra comunità per stare in contatto tutta la settimana, dirci i film che vedete, i vostri commenti, le vostre richieste. Io saluto Giorgio De Luca, che ci ha aiutato come sempre in redazione, Peter Bescapè qui alla console. Appuntamento la prossima settimana. Un saluto da Franco D'Assisti.